Buongiorno, buenos días. Voglio iniziare questo mio intervento con la spiegazione del titolo che ho dato al mio intervento. L'opera del maestro è l'azione della grazia. Il pensiero cristiano si è sempre interrogato sulla convenienza dell'uomo di dirsi maestro e padre di qualcun altro. Gesù stesso nel Vangelo ha ammonito: non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Eppure nell'esperienza umana l'autorità magisteriale non è mai stata negata. E fin dall'inizio della vita della Chiesa, questa pretesa è stata avanzata dagli uomini costituiti nel compito magisteriale. La sapienza umana si è trovata a chiedersi: com'è possibile essere maestri? E più in generale, com'è possibile comunicare la verità a qualcun altro? Il primo passo verso una risposta adeguata lo ha fatto Sant'Agostino nel suo De Magistro, nel quale delinea la dinamica del rapporto tra maestro e discepolo, e lo fa nella prospettiva di un cammino verso la verità, nel quale il maestro è colui che è in grado di indicare, letteralmente invitato a puntare lo sguardo con il dito puntato verso la verità. Un contributo significativo lo ha dato San Tommaso, soprattutto nella Questio 117, nella prima, della Somma. E si chiede se un uomo possa insegnare ad un altro. Questa è una questione affascinante, che implica molteplici problematiche, soprattutto il problema della conoscenza. Com'è possibile l'accadere di un tale evento? Nella Questio undicesima del De Veritate si chiede esplicitamente se l'uomo possa insegnare e dirsi maestro, oppure questo sia riservato solo a Dio. E risponde che la funzione del maestro, come quella paterna, è una partecipazione della prerogativa di Dio, è una funzione ministeriale, agendo in forza di Dio, che rimane padre e maestro unico. Il pensiero cristiano ha sempre parlato del magistero unico di Dio. A tale questione ha prestato attenzione San Bonaventura nel suo sermone Unus est magister vester Christus. Egli, Cristo, è il solo maestro, perché egli solo è via, verità e vita. Si può essere maestri solo in relazione all'unico capace di aprire il cuore umano, a Cristo. Questi brevi cenni sui caposaldi fondamentali della pedagogia cristiana ti servono di introduzione per comprendere la rilevanza del rapporto maestro-alunno in una prospettiva che è quella della fede cristiana, che Allers ci apre. Allers, la prospettiva umana aperta dalla fede cristiana costituisce una possibilità unica di risposta vera ed esaustiva alla domanda di bene, di salute e di progresso, in sereni processi di cambiamento. E questi sono possibili. Allers è convinto che la persona si possa aprire alla prospettiva della sanità, che la sua integrità si identifica con la santità. La santità e la sanità sono sempre frutto di un processo educativo, un cammino gioioso di appropriazione graduale dell'integralità del proprio essere uomini. Il mio intervento si limita a considerare gli aspetti pedagogici del pensiero di Allers, che ha scritto da medico, psichiatra e soprattutto di problemi legati alla cura delle problematiche psicologiche. In lui, natura e grazia, scienza e fede, opera della sapienza umana. illuminazione della verità rivelata si incontrano e trovano vero equilibrio nella sua prospettiva umana e professionale. Attenendoci al nostro tema generale, che verte sulla virtù della prudenza, cercheremo di intravedere la ragionevolezza profonda contenuta nelle indicazioni psicopedagogiche che il nostro autore propone. San Tommaso, a riguardo, parlando della prudenza, dice: la virtù è una qualità che rende buono chi la possiede e buone le azioni che compie. Ma come avviene, come è possibile che la bontà, il bene, sia fatto proprio, si manifesti nelle nostre opere? Alla prudenza spetta l'applicazione della retta ragione all'opera, che è impossibile senza la rettitudine dell'appetito, dice San Tommaso, e specifica chiaramente questo movimento quando scrive: le azioni da compiere sono materia della prudenza in quanto sono oggetto della ragione, cioè sotto l'aspetto del vero, sono invece materia della virtù, delle virtù morali, in quanto sono oggetto della potenza appetitiva, cioè sotto l'aspetto del bene. Ed eccoci al cuore dell'opera del maestro: orientare l'intelligenza e la volontà dell'alunno verso il bene, con il sostegno della grazia di Dio, che porta a compimento l'opera umana. Non ci soffermeremo sui dati specifici che descrivono lo sviluppo, ma cercheremo di cogliere come il dato di pensiero, la giusta posizione filosofica e teologica, abbia messo in grado Allers di giudicare i singoli temi legati alle problematiche psicoeducative. Cercheremo pertanto di andare all'essenziale. Mi fermerò alla disamina delle due opere fondamentali di carattere pedagogico di Allers: Psicologia e pedagogia del carattere e L'adolescenza e l'educazione del carattere. Allers si chiede: cos'è il carattere? Il carattere fa riferimento a una peculiarità, qualcosa di caratteristico e irripetibile. È tutto ciò che denota la personalità di un individuo. Tiene a precisare che il mistero della persona umana va ben al di là di una misurabilità, perché il dato caratterologico è misurabile. La persona va ben oltre l'apprensione dell'agire umano. Allers si pone il problema di fondo: se il carattere denota la personalità, è un dato immutabile, allora com'è possibile il cambiamento? Allers dice che è vero, il carattere denota la personalità, ma è possibile il cambiamento. Il più radicale cambiamento è dato dalla conversione. È l'evento dello specialista, come quello dell'educatore, ha il compito di portare a un cambiamento. Il carattere per Allers è qualcosa di profondamente variabile, cioè educabile. Il carattere ha a che fare con l'agire umano. L'agire umano è un movimento verso l'oggetto, verso la realtà. Allers, è interessante per Allers la relazione tra azione e valore. L'azione è sempre l'affermazione di un valore, Allers allora arriva a definire il carattere come l'imperativo categorico dell'individuo, in quanto appartiene all'ordine del giudizio, dei principi o della norma. In questo modo, Allers afferma assolutamente il primato del logos, cioè afferma un significato che è all'origine dell'azione dell'uomo, di ogni azione dell'uomo. Cioè, che cos'è il significato? Qualcosa di ragionevole, logico, cioè di un valore. Per Allers, la caratterologia dovrà essere fondata su una teoria di valori, dice. Perciò, in ultima analisi, sulla ontologia e la metafisica. E per questo chiama in campo l'etica, ma anche e soprattutto la religione. Il bambino, è l'esperienza comune, è attratto dal proibito. Allers cita a proposito l'episodio di Sant'Agostino che aveva rubato le pere da bambino per il semplice gusto di rubare, di porre un'azione, fare un'azione cattiva. Fare ciò che è proibito e dunque significa sempre un trionfo, anche se fittizio, una vittoria sul legislatore, un segno della propria grandezza e del proprio potere. È un tentativo dell'uomo di innalzarsi sopra Dio. E si realizza così una perversa volontà di potenza. Allers vede l'incredibile follia di tentare di mettersi su un piano di uguaglianza con Dio. Il vero scopo dell'uomo che compie il male, del peccato, è imitare la grandezza di Dio. L'uomo è caratterizzato dalla dimensione morale. La persona è apertura potenziale e naturale all'infinito. Sotto l'influsso della grazia, qualcosa di inaspettato può sempre emergere, può sempre accadere. La grazia è sempre in grado di creare qualcosa di nuovo, nuove possibilità. Finché vive, non è possibile che da lui emerga qualcosa di differente, qualcosa di nuovo, qualcosa di inaudito. L'educazione, pertanto, deve tenere presente questa dinamica dell'essere umano, questa sua apertura alla categoria della possibilità. L'originalità di Allers, nel quadro della psicologia clinica del suo tempo, è che la sanità, l'armonia con se stessi e l'equilibrio umano nasce da un'adesione alle leggi ontologiche. E lui dice che vi è un unico ideale che realizza l'uomo, compiere il proprio lavoro nella vita, un'unica virtù. Essa consiste nella conformità umile e volontaria alla volontà di Dio. È un unico peccato, la sfida alla volontà divina, cioè l'emergere dell'orgoglio. San Tommaso, a proposito del peccato, dice: qualsiasi peccato è contro la deliberazione, l'eubulia. Il consiglio deliberazione, afferma, è l'atto che più a rigore appartiene all'uomo. Ne consegue che il peccato toglie qualcosa di fondamentale alla persona. È certamente un di meno. Allers contraddice nettamente il pensiero e la pratica terapeutica dei suoi contemporanei. Lui dice che vi è un minimo di santità morale, di sanità morale, che può raggiungere ogni essere umano. Questo minimo è dettato dallo stato di grazia, cioè la condizione di chi evita il peccato mortale. Allora c'è una prospettiva superiore che caratterizza la sua metodologia, che possiamo definire come sguardo dall'alto. E al contrario, la nevrosi che cos'è? La nevrosi è dovuta all'esagerazione della tensione tra la volontà di potenza e la possibilità di potenza. È una conseguenza del peccato originale. Perciò è una ribellione e si manifesta nel timore. E poi ha come risultato l'artificiosità, il non essere sincero, la non autenticità. Perché non è autentico? Perché rifiuta di accettare la propria fondamentale finitezza umana e in particolare le proprie deficienze e la propria impotenza. Ma chi è libero veramente dalla nevrosi? È la persona che passa la sua vita in sincera dedizione ai doveri naturali e soprannaturali. Afferma proprio perentoriamente, in altre parole, al di là del neuroparatico c'è solo il santo. L'uomo vero dunque è il santo, l'uomo integrale è il santo. Vediamo che San Tommaso delinea la figura dell'uomo integro, di chi possiede tutte le virtù. Il santo è chi possiede tutte le virtù. Perché possiede tutte le virtù? Perché possiede la carità. Il nevrotico è dunque concentrato su se stesso, esclude il mondo esteriore, fugge dalla realtà. Due capisaldi dell'antropologia cristiana sono appunti il realismo, l'affermazione della realtà oggettiva delle cose, e la creaturalità. Il mondo mi è dato, la vita mi è data, è partecipata. E questa è la giusta posizione metafisica. Per cui escludere l'elemento soprannaturale dall'educazione e non perde la sua vitalità. Una psicologia puramente naturalistica, per quanto completa e ben fondata, non regge. E così un'educazione puramente naturalistica non regge. Abbiamo qui un rapporto intrinseco tra natura e grazia, tra natura e soprannatura, tra scienze e fede. Per Allers non è certo un equilibrio tra forze di pari valori, ma un rapporto nel quale il primo termine acquista tutta la sua valenza, la sua consistenza dal secondo. Allers denuncia lo stato di incertezza del giovane, la sua instabilità, la sua difficoltà a trovarsi nel giusto mezzo, il giusto mezzo tra appartenenza alla realtà e opposizione ad essa. Per cui il punto centrale dell'opera educativa è la formazione, la stabilizzazione del Dio. Guarda al giusto mezzo, San Tommaso rileva che esso è definito dalla ragione. La stabilità del Dio cui tende l'opera educativa fa sì che il giovane non sia più in balia delle alternanze dei propri sentimenti, della propria istintività. L'educazione alla virtù della prudenza conduce pertanto a determinare il modo e le vie per giungere al giusto mezzo, per usare le parole stesse di San Tommaso. I problemi umani per Allers sono sempre legati a valori del più alto ordine. I veri problemi dell'uomo della strada, dell'uomo elementare, dell'uomo comune, si potrebbero a ragione chiamare metafisici. Per questo nel giovane non bisogna trascurare nulla della sua esperienza e guardarlo nel fondo del suo cuore, della sua individualità, e trovare, scrive Allers, una via al cuore. Per trovare questa via al cuore dobbiamo tenere gli occhi aperti, liberi da ogni pregiudizio, ed osservare con l'occhio freddo dello scienziato. I giovani sono assetati di novità, sono rivoluzionari e rifiutano l'autorità. Ma allora come si può invitare il giovane a riconoscere l'autorità? L'autorità deve avere autorevolezza. E come può avere autorevolezza? In due modi. Il primo, dice Allers, l'autorità potrà edificarsi sulla base di relazioni personali. La seconda modalità perché l'autorità sia riconosciuta e sia approvata dalla ragione. Questa seconda è assolutamente superiore. Andiamo a San Tommaso. Dice che la prudenza è la ragionevolezza della via morale, cioè del vero bene dell'uomo. Allora, la prudenza per San Tommaso richiede che l'uomo sia capace di raziocinare. Solo così sarà in grado di applicare convenientemente i principi universali ai casi particolari, che sono vari e incerti. E qui sta il punto dell'opera educativa. L'applicare ai casi particolari i principi universali. L'educatore deve sempre incoraggiare il giovane e valorizzare i propri sforzi in campo morale. L'equilibrio razionale è proposto così anche dal punto di vista della volontà. Ma adesso aggiunge una cosa significativa. Perché l'incoraggiamento sia efficace, deve riferirsi sempre a oggetti reali. Poi fa una notazione veramente importante. I valori spirituali sono autentiche realtà. Perciò non è giusto parlare di idealità quando si propone al giovane la dimensione morale. E aggiunge, le leggi morali non sono meno reali di quanto lo siano le leggi fisiche. E San Tommaso, il disprezzo della ragione, l'appello ai poteri irrazionali, sono dunque per Allers un vero ostacolo per l'educazione. E dice ancora, la radice del male è indubbiamente l'incapacità o la riluttanza di molti a comprendere e apprezzare l'enorme importanza della ragione, della retta ragione, la quale, a detta dell'Aquinate, è la base di tutta la condotta morale. Ed eccoci arrivati all'ultimo rilievo di questa breve disamina. Dice San Tommaso, la prudenza è propriamente nella ragione, ma il ben deliberare non è un freddo raziocinio. Dice San Tommaso, è l'amore che muove l'atto della prudenza. L'amore, per Alles, porta il rapporto umano al livello del dono. Come dice Aristotele, amare è sempre volere il bene per qualcuno. Voler bene, cioè avere a cuore. E questo avere a cuore dell'educatore, la sorte integrale del suo alunno, in questa dinamica, non bisogna dimenticare che senza il sussidio della grazia non si arriva al cuore dell'alunno. E questi, l'alunno, a sua volta, non trova senza il sussidio della grazia l'energia a muovere la volontà verso i mezzi per raggiungere il bene. Avviandoci alla conclusione, mi piace trovare una correlazione tra il nostro autore e le proposte educative nate nella vita della Chiesa nel XIX secolo, che ancora sono vive. Queste grandi opere che trovano in San Giovanni Bosco, l'esponente più significativo, hanno come obiettivo non solo soccorrere con la carità il disagio sociale, sarebbe stato troppo poco, ma cosa vogliono fare? Vogliono prevenire con una opera pedagogica rigorosa e popolare le ferite che la cultura anticristiana stava infliggendo alla fede del popolo cristiano. La vicinanza di Alles all'opera di San Giovanni Bosco è testimoniata in varie pagine delle sue opere. E dice che il sistema educativo, e lui condivide in pieno il sistema educativo, il sistema preventivo, che il sistema educativo di Don Bosco si può sintetizzare col sistema preventivo. Che dice Don Bosco stesso, si appoggia tutto sopra la ragione, la religione e sopra l'amorevolezza. Sono tre termini che emergono dagli scritti di Alles: ragione, religione e amorevolezza. E Don Bosco ha scommesso sull'educabilità, non solo lui, insieme anche agli altri santi educatori che sono provvidenzialmente sorti nell'Ottocento nella Torino, prima capitale d'Italia. Un altro grande educatore, ancora tutto da scoprire, è tra Don Bosco e altri suoi amici di Torino, è Bartolo Longo, il fondatore della Nuova Pompei. Lui ha scommesso sull'educabilità dei figli dei carcerati. Ha scommesso contro la cultura dell'epoca, che voleva che i bambini nati e cresciuti in ambienti malsani non potessero essere educati, anzi la loro educazione fosse un danno alla società. E lui ha scommesso su questa possibilità. Questi santi tra fine 800, fine 800, inizio 900, sono stati chiamati i santi del sociale, ma non è vero, sono i santi della rievangelizzazione. Hanno basato la loro opera sociale, educativa, sulla possibilità di ripresa della fede cristiana. E soprattutto hanno usato gli strumenti della grazia come fattori determinanti dell'educazione. Nella nostra situazione che abbiamo perso i valori fondamentali dell'essere uomo, perché abbiamo perso la fede, abbiamo rinunciato alla fede, il nostro mondo ha rinunciato alla fede, la società e soprattutto la Chiesa ha bisogno, ha necessità di veri maestri, non semplici addestratori e istruttori. Il maestro è chi si fa guida al giovane perché la grazia di Dio possa condurlo verso la maturità umana integrale. Ecco, abbiamo bisogno di maestri così come Don Bosco, che abbiano prospettive aperte all'infinito, cioè al mistero.